692. Latte brûlé. Latte 1 litro, zucchero grammi 180, rossi d'uovo numero 8 e 2 chiare. Mettete al fuoco il latte con 100 grammi del detto zucchero e fatelo bollire per un'ora intera. Poi ritiratelo dal fuoco perché ghiacci. Sciogliete in una casseruola a parte gli 80 grammi di zucchero che resta. E quando sarà ben liquefatto, versatene in uno stampo liscio, tanto che ve ne ricuopra il fondo come di un velo. Quello che rimane nella cazzaruola, continuate a tenerlo al fuoco finché sia diventato nero. Allora fermatelo con un ramaiuolo d'acqua e lo sentirete stridere agrumandosi. Ma continuate a tenerlo al fuoco girando il mestolo per ottenere un liquido denso e scuro. Mettetelo da parte e frullate in un pentolo le dette uova. Poi mescolate ogni cosa insieme, cioè il latte, le uova e lo zucchero bruciato. Assaggiatelo se è dolce a sufficienza, passatelo da un colatoio di latta, non tanto fitto, e versatelo nello stampo già preparato. Cuocetelo a bagnomaria con fuoco sopra e quando la superficie comincia a colorarsi, ponete sotto al coperchio un foglio unto col burro. Per accertarsi della cottura, immergete uno steccolino di granata e se questo esce pulito ed asciutto, sarà segno che va tolto dal fuoco. Lasciatelo ghiacciar bene e prima di versarlo nel vassoio, con tovagliuolo senza, distaccatelo giro giro con un coltello sottile. In estate, prima di sformarlo, potete gelarlo col ghiaccio. Lo stampo da preferirsi è di forma ovale e sarebbe bene che avesse un orlo all'ingiro, largo un dito, onde non vi schizzasse l'acqua dentro quando bolle. Questa dose potrà bastare per 10 persone.